Sarà possibile poi pagare le multe a rate, anche questo è un tema molto interessante. Naturalmente questa facoltà, questa opportunità sarà solamente concessa a chi ha dei redditi bassi. Sì, esatto. Innanzitutto diciamo che è una novità, perché mentre prima ci si riferiva a una disposizione di carattere generale contenuta nella legge 689 dell'81, invece è stato inserito, o anzi verrà inserito l'articolo 202 bis nel codice della strada. E dunque ci dovrà essere un limite di reddito che non dovrà essere superiore a 10.628,16 euro, aumentato per ognuno dei familiari conviventi di 1.032,91 euro. E la sanzione dovrà essere comunque superiore ad almeno 200 euro. Sono le nuove norme. A fronte di queste indicazioni si potrà richiedere il pagamento rateizzato. Quante rate saranno possibili? Dunque, ecco, questo dipende. Allora, il massimo di 12 rate se l'importo dovuto non supera 2.000 euro, mentre 24 se l'importo è entro i 5.000, e addirittura si può arrivare a 60 rate se l'importo dovuto supera i 5.000 euro. Ci auguriamo che nessuno arrivi a questa cifra. Infatti, perché altrimenti chiaramente bisognerà fare la parallela relazione ovviamente con l'infrazione commessa. Comandante, ma qualora volessimo pagare a rate, perché comunque la sanzione che ci è stata appioppata è piuttosto importante economicamente, a chi dobbiamo fare richiesta di dilazionare il pagamento? Dobbiamo innanzitutto preparare la relativa documentazione, e in futuro sarà possibile fare richiesta direttamente agli sportelli presso i quali avviene normalmente il pagamento, quindi dell'organo di polizia che ha proceduto all'accertamento. Sempre facendo riferimento a questo articolo di Gianni Trovati del Sole 24 Ore di questa mattina, lui sostiene che occorre anche presentare un'istanza al prefetto o al vertice dell'ente che ha erogato la multa. Esatto, questo appunto dipende, perché ovviamente se si tratta di carabinieri e polizia di Stato, allora abbiamo a che fare con la prefettura, mentre per quanto riguarda polizia provinciale e polizia municipale la gestione è diretta, e quindi la domanda va rivolta agli uffici comunali o provinciali. Ripeto, sempre che non ci siano poi ulteriori modificazioni.